Se solo ti scopri ti porto in America. Medicina a parte non è così semplice. Il prezzo da pagare, foglie d'alghe rosse. Yeah.